Buonasera cari ascoltatrici, cari ascoltatori, mi sono preso delle vacanze un po' lunghe, beh insomma non solo io, ma c'è stata anche la ristrutturazione dei programmi, degli orari, and so on, come si dice. Comunque eccoci qua, riprendiamo questi appuntamenti per gli affezionati ascoltatori e ascoltatrici che si interessano, vogliono sapere cosa è uscito, cosa non è uscito, cosa leggere nel campo del fantastico. Dunque comincerei queste trasmissioni dell'anno 1992 con la segnalazione delle pochissime novità che ci sono in giro, veramente poche, perché come tutti sapete a gennaio gli editori si sono esauriti nel dicembre precedente, quindi non danno quasi nulla, e recupererò quindi alcune delle cose uscite nel mese scorso e forse anche un po' prima, insomma, per darvi. Dunque, questa sera vorrei parlarvi di due antologie. Io vi confesso che a me le antologie piacciono particolarmente perché continuo a essere convinto, come molti forse dei vecchi appassionati, non so quanti dei nuovi, che la fantascienza si esprima al meglio con i racconti più che con i romanzi, insomma. Quindi vorrei segnalarvi due antologie di racconti. La prima è L'Urania, che è in edicola, credo ancora in questa ultima settimana, è datata 29-12, ma insomma è uscita ai primi di gennaio. Si chiama Destinazione Spazio 2, non è nient'altro che l'annuale antologia del meglio della fantascienza curata da quel vecchio volpone, quel vecchio leone della fantascienza americana che è Donald Wolheim. Le sue antologie nell'originale si chiamano molto più semplicemente The Annual World's Best Science Fiction, cioè la meglio fantascienza dell'anno. In italiano non si sa perché la redazione di Urania gli mette questo orribile titolo, già glielo mise l'anno scorso Destinazione Spazio 1, ma gli mette Destinazione Spazio 2. Comunque sia, è un'antologia che raccoglie i racconti usciti, i migliori racconti usciti nell'89, 1990, quindi da noi esce con un po' di ritardo, ma ci sono parecchie cose che ancora non si erano viste, non si erano lette, e quindi vale la pena segnalarle. Quali racconti vi posso segnalare da questa antologia, che comunque vi dirò vale la pena, poi per 5.000 lire, insomma, un bel Urania argentato di oltre 250 pagine, insomma, che volete dalla vita. Allora, fra le cose migliori vi segnalerei, beh, innanzitutto, mi perdonerete, uno dei miei favoriti, James Ballard, Febbre di guerra. Dovrebbe uscire questo racconto anche in una antologia prossima a cura di diciamo Rizzoli con altri vecchi racconti di Ballard, ma insomma comunque questo Febbre di guerra, potete leggerlo subito, è un raccontino di quelli doc per chi ha seguito poi la guerra del Golfo eccetera, risulterà in qualche modo particolarmente premonitore. Si svolge a Beirut, in una Beirut di un immediato futuro, in cui ci sono ancora queste fazioni che si sparano addosso, ci sono i caschi blu dell'ONU. Non vi svelo il come dire, finale, perché è un colpo di scena magistrale degno del nostro più amato, del mio più amato scrittore inglese di fantascienza. Sullo stesso tema, ma ambientato nell'America Latina come molte altre cose, La resa di Lucius Shepard. En passant vi segnalerei Cheap Runner di Robert Silverberg, che coniuga in maniera veramente inedita la anoressia, cioè la impossibilità o la non volontà di assumere cibo, e i computer in un modo veramente che mi ha insomma stupito, veramente inedito. Una cosa abbastanza carina anche di Brian Stablefold, Il proiettile magico, sull'ingegneria genetica e sul DNA, insomma su cose di tipo biologico. Ecco, gli altri più o meno buoni, insomma, comunque ce n'è almeno 4-5 qua in questa antologia che vale la pena di leggere, quindi Destinazione Spazio 2, Urania Speciale in edicola. L'altra antologia è un po' più storica, ma anche questa abbastanza recente, invece è un librone ovviamente, è della editrice Nord e si chiama I premi Hugo 1984-1990. Voi sapete che già la Nord aveva pubblicato in passato due antologie curate da Asimov che diciamo comprendevano i premi Hugo dalla fondazione fino, mi sembra, al 75 o all'82. Poi ne era uscito un altro, adesso esce quest'ultimo che aggiorna tutti i romanzi brevi, racconti lunghi e racconti, nella terminologia inglese le novelette, novellas e short stories, premiate dal premio Hugo dall'84 al 1990. Dunque i premi Hugo non sono naturalmente a mio modestissimo parere, sempre il meglio che la fantascienza offre, perché sono quelle cose votate dagli appassionati americani, quindi insomma un po' seguono, però devo dire che sono delle maglie abbastanza larghe, qualcosa di buono gli scappa spesso, qualcosa di meno buono gli rimane impigliato in queste maglie, comunque sia, possono rappresentare, anzi sono sicuramente una lettura interessante per tutti quelli che così insomma volessero un po' vedere. Alcune di queste cose erano già uscite in alcune antologie italiane. Vabbè, c'è ovviamente il solito Orson Scott Card che fa un po' la parte, perché ce n'ha mi sembra due, no, ce n'ha soltanto uno premiato, ma insomma va bene, occhio per occhio. Io vi segnalerei il famosissimo Press Enter di John Varley, che è un autore che tutti noi abbiamo molto amato negli anni scorsi, purtroppo adesso si è messo a fare sceneggiature cinematografiche non propriamente di serie A, a lui gli va meglio come soldi, però non scrive più praticamente fantascienza, però questo Press Enter dell'85 è veramente un bel giallo, una bella cosa anche questa sul mondo dei computer. Abbiamo La musica del sangue di Craig Beard, cioè il primo racconto da cui poi lui ha tratto questo Blood Music, che avete letto come diciamo romanzo col titolo L'ultima fase. In italiano forse è meglio questo racconto lungo che non il diciamo romanzo che ne è stato tratto. C'è un bellissimo racconto della Octavia Butler che si chiama Il suono delle parole. Cose interessanti, un'altra cosa molto bella è il gattino di Schrödinger di Effinger, che avete già visto anche questa in un'antologia di Urania, ma se vi fosse sfuggita. Insomma, comunque le potete, insomma, li avete tutti quanti insieme, avete 1, 2, 3, 4, 5, avete 6 anni di premi Hugo, quindi 3x6, 18, avete 18 pezzi, dal più almeno una buona metà sono molto degni di lettura. Vi segnalerei fra l'altro una cosa che per quello che ne so io era inedita in italiano, che è una cosa che può darsi che in parte abbia qualche connessione con la sensibilità cyberpunk, ed è 24 vedute del Monte Fuji di Hokusai, che è un famosissimo romanzo breve di Roger Zelazny che non si era letto, credo, finora in italiano. C'è anche un Harlan Ellison, insomma, credo di avervi detto quasi tutto quello che c'è, insomma. C'è anche una Ursula Le Guin, così, dell'88, Le ragazze bufalo, e poi abbiamo un altro Silverberg. Ah, è molto interessante questo Plenilunio della Susie McKee Charm. Insomma, ve ne ho detti un po' in questa antologia della editrice Nord, che conta ben 714 pagine, costa, mi sembra, pochino rispetto, perché sono 35.000 lire per un'edizione rilegata, insomma di una così grande mole. Quindi ecco, per questa volta vi ho segnalato queste due antologie, una che farà la sua bella figura e vi occuperà un bello spazio in biblioteca, i premi Hugo 1984-1990 della editrice Nord, e l'altra invece Destinazione Spazio 2 di Donald Walheim, l'ultimo Urania speciale a lire 5.000. Ci risentiamo la prossima settimana. Seconda puntata. Buonasera a tutti, bentrovati a questo appuntamento su Fantascienza e Fantastico. Come vi avevo detto la scorsa settimana, vorrei ripescare alcuni libri di cui non ho fatto in tempo, insomma, non non c'era spazio per parlarne in appunto dicembre, anche se sono delle strenne praticamente, dei libri strenna usciti lo scorso anno, ma può essere interessante saperne qualcosa per chi non l'avesse ancora letti, per chi fosse interessato. Quindi voglio parlarvi questa sera di un romanzo di Stephen King che non è propriamente una novità, al contrario è un libro che è già uscito anche in italiano con un titolo veramente un po' strano, L'ombra dello scorpione. Il titolo originale era The Stand, cioè come si può tradurre la posizione, la presa di posizione, la Stand, questa parola un po' strana. Comunque è stato tradotto così, L'ombra dello scorpione. Se non vado errato è il quarto romanzo di Stephen King, cioè firmato Stephen King, uscì nel 78. La storia di questo romanzo è abbastanza interessante, la potrete leggere nel prossimo libro di King che uscirà tra qualche mese per le edizioni Teoria, si chiamerà Danse Macabre. È un libro non di fiction ma di critica, si può dire, come diavolo vogliamo dirlo. Un libro in cui King ci racconta un po' i suoi gusti, le sue cose, eccetera, sulla letteratura horror, sulla fantascienza, eccetera. La cosa così per cui questa nuova edizione riesce è la seguente: quando il libro uscì nel 78, l'editore ne tagliò quasi la metà, gliene fece tagliare quasi la appunto metà sulla base di considerazioni commerciali di vario tipo. Adesso nel 1990, edizione americana, King si è potuto permettere ovviamente con le sue vendite di andare dall'editore e di dirgli: bene, rifacciamo una seconda edizione di The Stand rimettendo praticamente tutte le parti che erano state tagliate nella prima edizione. Bisogna dire che King non si è limitato a fare questo, ha riletto il libro, non ha messo tutte le parti che erano state tagliate, ne ha aggiunte alcune altre fatte ex novo. Insomma, il libro non cambia, la storia del libro è sempre quella. È un libro molto più lungo, naturalmente, rispetto alle, mi sembra, 400-500 pagine della prima edizione. Queste sono ben 932, quindi chi vuole affrontare questa, diciamo, lettura sappia che ci metterà, dipende da quanto tempo ci mette a leggerlo, ma insomma direi mediamente un mesetto almeno, insomma, per chi legge, perché ha dei ritmi di lettura normale. Meritava l'operazione, valeva la pena, non lo so, io sono molto, molto incerto, forse sì, forse no. Ci sono alcuni particolari, questa narrazione è molto più distesa naturalmente, questa volta è molto più ampia, ci sono molti più particolari, molte più cose. L'idea di fondo non cambia, per chi non avesse letto neanche neppure la prima edizione di questo libro, la riassumo rapidissimamente. Gli Stati Uniti e presumibilmente il mondo intero, noi non lo diciamo sappiamo perché la cosa si svolge negli USA, ma insomma quasi sicuramente tutto il mondo, viene investito da una misteriosa poi non tanto, epidemia che è praticamente derivata da un virus sperimentale coltivato in alcuni laboratori militari americani per la guerra batteriologica. Il virus si espande, c'è un computer che non funziona appunto all'inizio. Ci sono numerosissimi personaggi nel libro. Il libro è una cosa, come spesso fa King, è un romanzo corale, come anche faceva Dick spesso. È un appunto romanzo corale in cui una certa quantità di protagonisti, di personaggi, si scontrano con questo appunto problema. Quindi sembra una situazione all'inizio prettamente fantascientifica di una catastrofe, un mondo post, diciamo, atomico, eccetera. Però ben presto si vede che siamo in un romanzo di King, quindi, ed è un romanzo firmato King e non Bachman, quindi non è fantascienza pura, anzi non è quasi nulla fantascienza. Torniamo rapidissimamente vuol dire dopo 300-400 pagine, ai temi fondamentali di King, che sono ovviamente la lotta tra il bene e il male. Il bene e il male in questo caso sono rappresentati da due personaggi emblematici che tutti i protagonisti del libro cominciano autonomamente a sognare. Sognano da una parte una specie di uomo nero, cioè un personaggio che cammina di notte, che si può trasformare, di cui non si vede il viso ma soltanto gli occhi rossi, eccetera eccetera, che scopriremo poi si chiama Randall Flagg ed è una specie di inviato di Satana nel nostro mondo, quindi è il polo del male. E invece una vecchissima ultracentenaria nera che si chiama Mother Abigail, Mamma Abigail, la quale vive in un altro posto e la quale invece rappresenta, pur essendo nera pure lei dal punto di vista della pelle, non lo è dal punto di vista, diciamo così, delle qualità morali e rappresenta il polo del bene. Intorno a questi due personaggi si aggregano mano a mano le poche migliaia di sopravvissuti in tutti gli Stati Uniti per una sorta di scontro molto epico, finale appunto tra il male e il bene. È veramente un romanzo ambizioso, negli USA pare che sia il romanzo più amato, se non quello più venduto, quello più amato di Stephen King. Stephen King dichiara di non amarlo altrettanto sopra tutti gli altri, cioè dice che non è il suo, come dire, preferito, però dice siccome il pubblico, o almeno il pubblico più affezionato, lo considera il mio di romanzo quello più, diciamo, riuscito, egli ha appunto pensato di darci questa nuova edizione integrale. Che cosa dirvi? È veramente il romanzo più riuscito di King? Io penso forse di no, anche perché, come sempre, di King mi piacciono molto alcuni, diciamo, racconti lunghi, alcuni romanzi brevi, eccetera. Mi piacciono meno forse i romanzi più, diciamo, famosi. Anche questo, bisogna dire, è un romanzo ambiziosissimo che ambisce a darci una specie di rilettura della storia, diciamo, non solo degli Stati Uniti, ma complessivamente dell'intera umanità. Però, insomma, non lo so, certamente a volte il risultato, a volte ci sono, come dire, lungaggini, eccetera, non è propriamente, però insomma vale la pena di leggerlo per chi non l'avesse letto, soprattutto nella prima edizione, vale la pena di rileggere questa seconda edizione. Quindi Stephen King, L'ombra dello scorpione, edito in Italia da Sonzogno, sono 932 pagine, per lire 35.000. A risentirci. Terza puntata. Buonasera a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori, appassionati e fedeli ascoltatori di queste settimanali segnalazioni sul tema del fantastico. Questa settimana non vi parlerò di fiction, ma vi parlerò di libri di altro tipo, principalmente, per così dire, dei dizionari, cioè delle opere di complemento alla nostra e vostra, insomma, non lo so, passione. Perché uno mi era sfuggito lo scorso anno, volevo sempre parlarne, poi non ne ho mai parlato, eccetera, insomma vale la pena. Sta per uscire, adesso vi dico la novità, sta per uscire il terzo volume di una opera monumentale, di cui adesso vi spiegherò un po', insomma. Si tratta del Cinema di fantascienza di Luigi Cozzi, edito dall'editore Fanucci di Roma, editore per certi versi famigerato, ma che ogni tanto fa pure qualche cosa che vale la pena leggere, no, ne fa di più di cose che vale la pena leggere, naturalmente, insomma, però ogni tanto, devo dire, non con la necessaria cura editoriale e redazionale, ma insomma, lasciamo perdere i commenti negativi, passiamo a quelli positivi. Quest'opera, il Cinema di fantascienza, è un'opera programmata, se non ricordo male, in 9 o 10 volumi, cioè, e quindi è la cosa praticamente più vasta, più informata, più enorme che ci sia sul cinema di fantascienza. In ogni volume il signor Luigi Cozzi, che alcuni di voi forse conosceranno come famigeratamente regista cinematografico di alcuni meritevoli bidoni, altri lo conosceranno come amico di Dario Argento e come gestore a Roma del, appunto, negozio Profondo Rosso, che dimostra chiaramente la sua origine argentiana, insomma, è un appassionato di fantascienza, horror, eccetera, eccetera, è uno che ha effettivamente vaste conoscenze, anche se non ha sempre uno sguardo critico molto limpido sulle cose che dice, ma perlomeno dal punto di vista informativo vale la pena di guardare le cose che dice, e questo, diciamo, lavoro è effettivamente un lavoro immane che lui ha intrapreso di schedatura e di brevi, diciamo, notizie su tutto il cinema di fantascienza, ma quando dico tutto voglio dire veramente tutto, insomma, cioè comprese le cose più infami, uscito fra il 1895, cioè l'anno di diciamo invenzione grosso modo della macchina cinematografica da parte dei fratelli Lumière ed oggi. Dunque, i due volumi che sono già usciti sono i primi due in ordine cronologico ed hanno praticamente tutto il cinema muto in qualche modo. Il primo volume va dalle origini fino al 1920, il secondo volume dal 1920 al 1929. Ci trovate per ogni libro decine e centinaia di titoli citati, naturalmente non si può pretendere che Cozzi li abbia visti tutti, insomma, ha spesso preso delle, diciamo, notizie laddove le poteva prendere, laddove le poteva, cioè. Però effettivamente è il, come dire, l'opera più completa che ci sia in assoluto su questa, su questo tema, insomma, quindi ci sono tutti i film, tutte le cose. Il secondo volume, ovviamente, andando dal 20 al 29, è dominato dal cinema tedesco per quanto riguarda la fantascienza e in particolare dai due grandi film di Fritz Lang, Metropolis, ovviamente, e Una donna sulla luna del 26 e del 28-29, rispettivamente, mi sembra. Il terzo volume, che dovrebbe uscire tra un mese o due, credo, invece, farà un salto cronologico, quindi è il terzo volume in ordine di uscita, ma non è il terzo volume nel piano dell'opera, perché parlerà invece del grande cinema di fantascienza degli anni 70, quindi da quello che comprenderà Star Wars, credo, anche E.T., credo, come insomma volume. Comunque è un'opera che vi, diciamo, raccomando a tutti quelli che fossero particolarmente ovviamente appassionati di questo tipo di cinema, perché non ce n'è l'eguale nel mondo se non in alcune enciclopedie estremamente specializzate, insomma. Quindi Luigi Cozzi, il cinema di fantascienza, l'editore Fanucci di Roma, i volumi costano, i primi due 25.000 l'uno, il terzo non so quando uscirà. Questo è il primo dizionario, per dire, di cui volevo parlarvi. Poi volevo parlarvi di altre due cose che sono uscite anche queste verso la fine dello scorso anno, di altro argomento, non certamente di fantascienza, ma collegate un po' con quello di cui ci occupiamo noi. Il primo è un dizionario che si chiama Dizionario delle figure fantastiche, è stato scritto dal professor Carlo Lapucci, edito da Vallardi, sono ben 412 pagine per lire 32.000, un'edizione rilegata, e che cosa è? È un dizionario di tutte le figure, i personaggi della fantasia popolare, e devo dire anche i luoghi in cui questi si manifestano, della tradizione popolare italiana. Quindi questo professor Lapucci, che è autore di altri libri molto più altrettanto dotti sull'argomento delle tradizioni popolari, ha raccolto, schedato, sintetizzato con veramente con una, come dire, encomiabile scienza, ma anche con una scrittura molto semplice, facile, accattivante, insomma, tutto quello che si sa sui, come dire, sulle figure fantastiche, quindi su streghe, maghi, orchi, ninfe, mettetene quello che, insomma, volete mettere dentro, tutto quello che la fantasia popolare ha partorito sulle figure fantastiche. Le sue fonti quali sono? In parte certamente delle opere letterarie o delle compilazioni precedenti a lui di, diciamo, materiale folcloristico, ma spesso anche racconti orali in prima persona che lui stesso ha, diciamo, raccolto in giro nel suo lavoro di questi anni, perché ovviamente un libro del genere sintetizza un, diciamo, lavoro di anni e anni, insomma, no? Ed è molto, direi, gradevole, insomma, perché si possono conoscere regione per, diciamo, regione in appunto Italia, tutto quello che la fantasia popolare ha partorito su queste strane figure, che poi sono le stesse che, trasformate in qualche modo, dominano nel mondo della narrativa di genere, nell'horror, nella fantascienza, eccetera, eccetera. È un libro che vale la pena, per chi ha voglia, per chi è interessato, eccetera, di avere, perché effettivamente molto più di, diciamo, raccolte di tipo fiabe, eccetera, nelle quali tutto questo materiale non è così ben schedato, così ben messo a posto, uno può andare a vedere, per esempio, le streghe, il noce di Benevento, che ne so, nella Val d'Aosta, quali personaggi fantastici ci sono, eccetera, eccetera, può essere molto interessante. In complemento, in accoppiata con questo libro, vorrei segnalarvi invece un libro per i bambini. So bene che è passato Natale, i bimbi leggono poco, eccetera, eccetera, ma insomma, volevo segnalarvelo lo stesso perché mi sembra interessante, è molto, diciamo, divertente. È un libro scritto da una signora, si chiama Cristina K. Legora, una signora molto simpatica, il titolo è I mostri, l'editore è Fabbri, sono molto più breve dell'altro, sono 88 pagine per 22.000 lire, ha delle bellissime illustrazioni fatte da Ettore Maiotti, acquarelli molto tenui, delicati, eccetera. E che cos'è? Anche questa è una specie di enciclopedia di mostri, in questo caso, quindi di orchi, di folletti, di gnomi, cose di questo tipo, concepito ovviamente per i bambini, quindi i bimbi leggono, cioè sono belle lettere scritte grosse, quindi non ci sono problemi, si guardano queste belle, insomma, figure, il testo è ovviamente spiritoso, non si deve ovviamente pretendere una accuratezza filologica del mostro in questa cosa, ma può essere soprattutto per esorcizzare, per dare anche una specie di contraltare a questi mostri tecnologici di cui i nostri bambini oggi si nutrono. Può essere interessante anche andare a, appunto, vedere un po' di questi mostri della tradizione. Quindi, vi ripeto, ricapitolo brevemente su cui vi ho parlato questa sera. Abbiamo parlato del cinema di fantascienza di Luigi Cozzi, editore Fanucci, opera in più volumi, sono usciti i primi due dalle origini del 1929, sta uscendo il terzo sugli anni 70, il dizionario delle figure fantastiche di Carlo Lapucci, edito da Vallardi, e il libro di Cristina K. Legora, I mostri, editrice Fabbri. Noi ci risentiamo la settimana prossima, buon ascolto a tutti, a risentirci.